Yeah! Ah, radioofficina.org. Movimenti lotta per la cassa. Mai più CIE, mai più cara. Ah, yeah! Libertà di movimento. Basta con questa merda. Basta! Eccoci qua, stiamo arrivando. Siamo il pueblo che sta protestando. Tutta l'Italia mettici alla spera. Fino al CIE di Ponte Galera. Abbatti tutti i muri, libertà di movimento. Abbraccia la libertà, voli in alto come il vento. Mai più CIE, urla contro il sistema. Chiudiamo tutte queste gabbie, rompiamo lo schema. Mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE, mai più CIE.